E siamo a visionare il cinema su Radio Onda Rossa tutti i giovedì dalle 14 alle 15, ma spesso e volentieri anche subito dopo il giornale radio, che tra l'altro quest'oggi non è andato in onda. In diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page c'è Ascolta la diretta. Tutte le informazioni sulla scaletta e la trasmissione le trovate sempre sul sito internet della radio, sulla colonna centrale, alla voce trasmissioni visionari, sulla pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Per quanto riguarda gli ospiti di questa settimana, cominciamo con Mattia Priori della seconda edizione di Anima V, Festival del Cinema d'Animazione Poetico a Pergola, dal 12 al 16 luglio. Mattia, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie mille e buon pomeriggio a tutti i vostri ascoltatori. Seconda edizione, com'è nato questo festival? Allora, il Festival Anima V è un festival che nasce abbastanza lontano, nel senso che è un'idea del nostro direttore artistico Simone Massi, mio amico, nostro amico, insomma, concittadino pergolese, la città nella quale risiedo, che autore e regista di film d'animazione molto conosciuto in Italia, vincitore di Davide Donatello, Nastro d'Argento, per quelle che sono le sue opere. Simone alcuni anni fa ha pensato di creare un festival dedicato a tutte quelle opere di cinema d'animazione poetico. Sì. Un festival quindi non generalista, ma rivolto in particolar modo a questa nicchia di cinema, diciamo così. Sì, sì. Che cos'è il cinema d'animazione poetico? Generalmente, a meno che non si sia specialisti, quando si pensa al cinema di animazione si pensano ai film della Disney, ai film della Pixar, a cose di questa tipologia. Ma oltre a questo esiste un mondo molto più ampio che ingloba anche delle opere particolari che noi abbiamo definito appunto cinema d'animazione poetico, che sono vere e proprie opere d'arte i cui autori e registi passano la loro vita a disegnare, a fare disegni, a fare opere d'arte che poi montate in sequenza realizzano dei particolari film. Generalmente queste opere non sono film della lunghezza di un'ora, due ore, ma sono cortometraggi, perché per realizzarle ci vuole molto tempo. E a questo particolare settore del cinema abbiamo dedicato il nostro festival. Senti, sono diverse le tecniche dell'animazione, immagino. Certo, diciamo che il mondo in questo senso è ampio, perché poi ogni regista ha la propria tecnica. E questo è anche il bello di quello che andiamo a scoprire, no? Perché poi i disegni possono essere realizzati in mille modi, dalla maniera digitale, sempre artistica, tecniche più manuali, veramente un mondo sconfinato. Quello che lega tutte queste opere però è proprio la poeticità che poi attraverso questi mini film l'autore riesce a trasferire allo spettatore. Sì. Essenzialmente, essendo veramente delle piccole opere d'arte, si tratta di film dove c'è un breve accenno di trama. Sono film poetici un po' anche per questo, perché poi raccontano per suggestione e quindi lo spettatore ha modo proprio di approfondire e di vedere anche durante la visione di questi mini film, di capire bene quella che è la tecnica dell'autore. L'anno scorso abbiamo avuto alla prima edizione ospite un caposcuola del cinema d'animazione mondiale, Alexander Petrov. Lui è solito dipingere su vetro e questo per rendere un dinamismo migliore nelle sue tavole, e abbiamo avuto modo proprio l'anno scorso di conoscere da vicino questo tipo di tecnica. Quest'anno l'ospite è animatore di fama internazionale, che avremo diciamo ospite nei giorni del festival, è Giorgio Schiebel, un artista svizzero che utilizza tutt'altro tipo di tecniche, insomma, e quindi è anche un modo di scoprire mondi molto diversi. Sì. Senti, il destino di queste opere, chiaramente escludendo soprattutto il cinema, purtroppo sono le TV e il web. Sì, guarda, spesso io ho cominciato questa avventura ad organizzare questo festival con alcuni amici, sviluppando questa idea di Simone, ed ancora io stesso non ero mai entrato in contatto veramente con questo tipo di cinema. Da quando l'ho scoperto mi sono accorto che spesso viene utilizzato ad esempio per sigle, per chi non si ricorda la sigla di Fandango, adesso tanto per dirne certo. Una. Ecco, spesso l'utilizzo nel lato commerciale è per cose tipo questa. Logico che in quel caso lì non si riesce a percepire tutta la poeticità, spesso passano e si guardano queste opere in maniera molto distratta, no? Perché fungono da contorno. Invece quello che proprio vogliamo fare noi, l'operazione che tentiamo di fare con questo festival, è di accendere un vero faro su questo tipo di cinema, per far capire quanta importanza ci sia dietro questo tipo di lavoro. Sì, sì, sì. Mattia, quante opere saranno ospitate in questa edizione, questa seconda edizione del festival? Allora, tutti gli anni noi invitiamo 16 autori da tutto il mondo a concorrere al Bronzo Dorato. Il Bronzo Dorato è la nostra statuetta premio che rappresenta un simbolo della nostra città, ovvero la testa di cavallo di un gruppo scultoreo in bronzo dorato, appunto, d'età romana, rinvenuto proprio qui a Pergola. Queste 16 opere vengono giudicate da una giuria che tutti gli anni è composta da 3 elementi. Uno, in rappresentazione del mondo dell'animazione, e appunto quest'anno sarà lo svizzero George Ritzgeber. Un'altra in rappresentazione del mondo del teatro, e abbiamo quest'anno Valentina Carminotti, un'attrice romana. Il terzo giurato invece è in rappresentazione del mondo della poesia, e quest'anno sarà con noi Nino De Vita, un poeta siciliano. Questi 3 giudici giudicano le opere in gara fino a decretare logicamente il vincitore. Sì. Oltre a questo vengono assegnati dei premi speciali, viene assegnato il premio del pubblico, perché gli spettatori che poi partecipano alle serate possono esprimere le loro preferenze, e quindi si va a creare un vero palmarès di premi attribuiti a questi film. Come sono organizzate le giornate? Allora, il festival inizia quest'anno il 12 di luglio e termina il 16. Il 12 sarà una serata preludio in un posto speciale, in un piccolo borghetto vicino a Pergola, in un comune attaccato a Pergola, che è il comune di San Lorenzo, dove avremo un preludio al festival. In questo preludio, tutti gli anni, noi andiamo a riconoscere ad un regista di fama internazionale, non essenzialmente del mondo del cinema e dell'animazione, un premio alla carriera. Sì. Facciamo questo perché vogliamo, in qualche modo, non vogliamo creare un festival autoreferenziale che parli solo di animazione, ma vogliamo portare l'animazione a tutti. E quindi abbiamo pensato nell'organizzazione delle nostre serate di coinvolgere anche persone di diversi mondi della cultura. L'anno scorso questo premio speciale è andato ad Emir Kusturica, che ci ha raggiunto al festival ed è stato premiato. Quest'anno il premio speciale alla carriera sarà attribuito ad Alexander Sokurov, un altro regista di fama internazionale, già vincitore di Cannes più volte, anche se si raggiungerà a Pergola per ricevere questo premio. Poi le serate proseguiranno nel 13, 14, 15 e 16 di luglio con vari ospiti e logicamente con la visione dei cortometraggi e dei film in gara. Sì, sì. Avremo ospite Marco Paolini sabato 15 con uno spettacolo dal nome, una conferenza spettacolo dal nome Pergola Tecnofilò. Il 16 avremo Ninetto Davoli, in rappresentante un po' di quello che secondo noi è il cinema poetico pasoliniano, in qualche modo comunque si collega all'arte poetica italiana. E poi nelle altre serate, sia il 13 che il 14, avremo delle retrospettive, delle personali dedicate ai giurati in gara e ai giurati che poi valutano le opere. Senti, le opere in concorso più o meno che arco di durata hanno? ma sono film che vanno dai 3 minuti ai 15, sì. Diciamo così. Io ti posso dare un'indiscrezione, quest'anno già alcuni ne ho visti e durano in media 10-12 minuti, insomma, ecco. Sono opere che c'è veramente complesse per realizzare un film di animazione, certo. Di 10 minuti ci si può impiegare anche 2 o 3 anni, quindi veramente crediamo che a questo tipo di lavoro vada data una importante dignità, ed è per questo, ripeto ancora, che abbiamo pensato di creare AnimaVi. Da quali paesi arrivano? Dall'Australia, dalla Russia, dalla Polonia, dal Portogallo, un po' da tutto il mondo. Devo dirti che ho riscontrato personalmente che c'è una gran scuola, oltre a quella italiana, c'è una gran scuola in Russia di questo tipo di opere. Sì. L'anno scorso la vincitrice è stata Anna Shapilova, un'attrice russa, anche quest'anno in gara abbiamo diversi autori russi. Opere, insomma, che ci giungono proprio da tutto il mondo. Senti Mattia, esiste un archivio dove poi è fruibile tutte le opere, sono fruibili le opere che ospitate al festival? Ma allora, noi non creiamo un archivio sui nostri canali perché innanzitutto, in anteprima, no, sono opere che non si svelano, insomma, non vanno viste al festival. Certo. E poi successivamente, logicamente, siamo molto più contenti che chi va a ricercare questo tipo di lavori lo faccia sulle pagine degli artisti, perché è un modo anche per incentivare la loro visibilità e le loro opere. Sì, noi sì. Mostriamo uno dei loro film, quindi andando a scoprire questi mondi poi si vedono opere ed opere. Un'altra cosa importante che mi piace dirvi, se ancora c'è qualche minuto, certo. È quella che AnimaVi è molto legata al territorio e alle nostre tradizioni. All'interno di questo festival noi diamo ampio spazio anche alle persone del nostro paese. E per persone intendo a minatori, contadini, artigiani che sono i tipici abitanti di un paese piccolo, come di una cittadina piccola come Pergola, nell'entroterra delle campagne marchigiane. Perché facciamo questo? Perché noi pensiamo che l'animazione sia un sogno, ma questo sogno logicamente ha delle radici importanti nella storia di ognuno di noi. Quindi in qualche modo vogliamo creare questo filo conduttore. E all'interno del festival abbiamo appunto tutte le sere un piccolo spazio che si chiama Le radici e le ali, nei quali noi andiamo a far salire sul palco, insieme a personaggi del mondo della cultura che ho menzionato prima, proprio questi signori o queste signore del nostro territorio. Una situazione bellissima che in qualche modo rende ancora più poetico AnimaVi, secondo noi. Senti, allora ricordiamo l'appuntamento della seconda edizione di AnimaVi, Festival del Cinema d'Animazione Poetico, a Pergola dal 12 al 16 luglio. In chiusura, Mattia, ci lasci tutti i riferimenti web? Certamente. Allora, AnimaVi, www.animavi.org, il nostro sito ufficiale dove potete trovare il programma, scaricarlo in PDF, le informazioni come raggiungere Pergola e anche informazioni sull'ospitalità. Benissimo. Oltre a questo, logicamente abbiamo una pagina Facebook che invito tutti i vostri ascoltatori a cliccarci sopra, perché è il metodo più agevole e veloce attraverso il quale magari diamo le informazioni. E ricordo che il programma di AnimaVi è in parte gratuito, quindi molti degli eventi che si trovano all'interno del programma sono gratuiti, e in parte a pagamento. Quindi, per non correre il rischio di arrivare a Pergola e rimanere senza biglietto, per gli eventi principali, occhio al programma, e i biglietti si possono acquistare in prevendita su liveticket.it. Un abbraccio, un in bocca al lupo. Crepi, grazie mille per l'ospitata, e ancora un saluto a tutti gli ascoltatori. Ciao Mattia, ciao. Ciao, grazie. Mattia Priori, della seconda edizione di AnimaVi, Festival del Cinema d'Animazione Poetico. Pierpaolo Verdecchi, regista del documentario Babilonia Mon Amour al Cinema Ariston a Trieste, domani 7 luglio, venerdì. Pierpaolo, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Sì, ciao, eccoci. Saluto a tutte e tutti, ciao. Allora, raccontaci un po' come nasce questo progetto. Guarda, questo progetto qua nasce in realtà da un altro progetto prima, che poi aveva origine a Roma, sulla Casilina, insieme a Mambai Diop e poi a Sofia Karakachov, che saluto. E quel progetto poi si è arenato nel mentre avevo conosciuto quell'occupazione abitativa appunto a Barcellona, dove è ambientato Babilonia, dove viveva questo gruppo di ragazzi appunto senegalesi. E niente, avevo conosciuto quei posti, quei luoghi loro, e poi appena ho potuto, sia anni dopo, ci sono tornato e mi sono stabilito lì, diciamo, con loro. C'avevo il camper, ho vissuto là con loro. Quindi il progetto ha origine, diciamo così. Era un po' per me uscire dalla visione stereotipata così della rappresentazione, no, della categoria migrante, e quindi cercavo qualcosa che insomma, potesse un po' entrare nel conflitto, cioè fra la loro realtà e quella della metropoli, insomma, escludente e controllata come Barcellona. Mm-hmm. Quindi siamo stati anche molto bene assieme. Senti, come hai deciso di raccontare questo e quanto sono durate le riprese? Guarda, sono stato più o meno un anno a vivere lì, e come ho deciso? Guarda, in realtà decidevo un po' andando, perché il film è stato abbastanza molto autonomo. Più passava il tempo, più insomma ho perso quello che si dice, il controllo così sul film. E ero molto con loro, vivevamo appunto quotidianamente condividendo, quindi le cose erano tutte lì. Avevo provato ogni tanto anche a mettere in scena qualcosa che avevo visto e che non avevo ripreso, perché cose più belle mi sono sfuggite, diciamo. E la cosa interessante è che con loro c'era anche questa rappresentazione, cioè non si sentivano appunto rappresentati, no, con i media su come loro erano, insomma, sulla propria intimità, e quindi c'è stati tanti piccoli regali, no, che andando in giro abbiamo trovato assieme, ecco, un po' così la vedrei. Sì. Poi in montaggio, quando sono arrivato qui a Trieste, che appunto ha adottato la Ops Film di Ivan Borman e Fabio Teutsch, cominciando il montaggio con Fabio, e lì abbiamo cominciato, insomma, a capire che film avremmo fatto. Sì. E lì al montaggio l'abbiamo riscritto, diciamo. Pierpaolo, che realtà ti sei trovato davanti? Oggi Barcellona, a parlarne male sembra strano, perché comunque no, succedono pure delle cose, però di fatto comunque sono culture che, cioè, sempre il problema della diversità che non è vista come ricchezza, e quindi trovato una città comunque pesantemente controllata, con tutta la sua inerzia appunto metropolitana, che lascia poco spazio a tutto il resto, e quindi poi in quei giorni c'era stato anche, cioè in quei mesi, diciamo, era il periodo che sgomberavano il Cambies, che sì, poi i ragazzi si sono tenuti, infatti il posto che tuttora hanno, e con alcuni di loro, con alcuni ragazzi cinesi, andavo lì, quindi c'era un po' uno scambio con i ragazzi che poi hanno ristrutturato quel posto. E mi sono perso però nel frattempo. no, ti chiedevo che realtà ti sei trovato davanti, e a questo punto ti chiedo anche come l'affrontano i tuoi protagonisti. L'affrontano stando assieme. Cioè, l'affrontano appunto in una dimensione collettiva, in faccia alle difficoltà della vita, reagiscono assieme e lottano in qualche modo per mantenere l'integrità che viene messa ogni giorno a dura prova. Sì. È il problema un po' della cosiddetta integrazione, che forse è una parola un po' così, un po' morta. Più che altro c'è una disintegrazione di una serie di cose, no? Quando comunque devi accettare delle regole comuni e insomma privarti anche del resto, no? Tutto il resto con cui vieni, insomma. Quindi si sta molto dura, chiaramente. Sì. Senti, dopo questa presentazione all'Ariston domani, che percorso farà il tuo documentario? Guarda, infatti stiamo un po' capendo, perché la distribuzione pare che ce la facciamo da noi, no? Anche molto volentieri, ora vediamo che riusciamo a combinare, e certo a Roma ci piacerebbe venire ed anche in più posti, faccio così un appello a Roma, noi siamo disponibili. Ci saranno altri festival, sì, ora ci stanno dando un po' di risposte, però ecco, volevamo curare una piccola distribuzione da noi, magari con un piccolo così, no, tour, partendo pure dal sud, arrivare fino, insomma, e tornare magari qua a Trieste. Senti, i tuoi personaggi si sono riconosciuti nel lavoro? Sì, intanto diciamo che esatto, ci sono dei personaggi, però è più un gruppo, non c'è un narrativo di qualcuno, sì, però c'è comunque appunto così un gruppo, poi qualcuno esce più fuori degli altri, chiaramente. Sì, allora è piaciuto nel senso che non ci siamo mai posti il problema di qualcosa che non andava bene, ad esempio, lo dico ancora, magari prendo qualche denuncia, non ho manco una liberatoria, per dire, quindi comunque il lavoro è nato sì assieme, sì. Poi ero solo a girare, quindi quello ancora mi ci ha unito di più, penso. Sicuramente. Senti, ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Sì. Allora guarda, se vabbè, lasciamo la mail per qualche proiezione, ed è opsproduzione@gmail.com, e poi c'è anche la paginetta Facebook Ops Film, scritto OPS? OPS, sì. OPS, benissimo. Ops Film, sì. Yes. E quindi però siamo contattabili così. Ok. Senti, Pierpaolo, noi solitamente ci diamo appuntamento con i nostri ospiti per in vista di una eventuale distribuzione del documentario, per cui se così sarà ci risentiamo in quell'occasione. Volentieri. Allora speriamo bene. Un abbraccio a Roma, sì. Magari a Roma, sì. A voi. Un abbraccio e a presto. Grazie. Ciao. Grazie, ciao. Pierpaolo Verdecchi, regista del documentario Babilonia Mon Amour al cinema Ariston di Trieste. L'anteprima è domani, venerdì 7 luglio. Eccoci con Matteo Pavesi per parlare di Estate Tabacchi al Museo Interattivo del Cinema a Milano. È cominciata il 16 giugno, andrà avanti fino al 25 agosto. Matteo, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie dell'invito. Bene, insomma, di essere ancora con voi. Senti, allora, per chi ci ascolta, intanto raccontiamo com'è questo Museo Interattivo del Cinema. Beh, innanzitutto questa rassegna estiva non è una rassegna, diciamo, non è la classica rassegna retrospettiva, è un modo prima di tutto sì, per vedere dei bei film, per recuperare anche dei film della stagione di qualità, ma quello a cui noi puntiamo è, come dire, di creare una socialità attorno al museo, attorno ai film, per cui ci sono proposte di diverso tipo, come ad esempio il mercoledì offriamo sempre prima della proiezione un bicchiere di vino e un tramezzino, proprio per che non è un aperitivo, è un modo per trovarsi e magari parlare di cinema. Oppure nella programmazione ci sono 4 appuntamenti sulla terrazza sotto le stelle con cinema muto, quindi con la musica dal vivo, in una situazione così molto particolare. E poi ci sono una retrospettiva che attraversa l'offerta nella sala legata al cinema degli anni 70 e poi le riprese di stagione che ci hanno maggiormente convinto. Senti, visto che si tratta di oltre 2 mesi di programmazione, quante sono le opere che state presentando? Ma diciamo che questa rassegna come dire, rimane stretta tra il martedì e il venerdì, okay. Per cui sono circa una quarantina le opere che presentiamo. Sì, poi sì. Dopo l'attività del museo e di programmazione prosegue ovviamente nel weekend, però in una fascia più pomeridiana o preselare, mentre questa è la caratteristica di questa rassegna invece, che è esclusivamente serale, in parte in sala, in parte all'aperto. È prevista anche la presenza di autori? No, no, perché il periodo non è, insomma, è complicato avere, certo, degli ospiti, certo, a luglio e agosto, e quindi abbiamo puntato più sul, come dicevo prima, sulla società, sul pubblico, sull'idea comunque di venire a vedere un film e comunque poter poi stare all'interno del museo interattivo, quindi esplorare anche altre delle postazioni, eccetera, per cui il contesto è un contesto assolutamente unico. Certo. Matteo, com'è il rapporto del museo con la città? Beh, il rapporto col museo, il rapporto del museo con la città è un rapporto che in questo anno si è molto molto sviluppato, soprattutto per quanto riguarda il mondo della scuola. Abbiamo, sì, avuto un boom clamoroso di frequentazione di scuole per workshop, per visioni, per visite, raggiungendo dei livelli proprio di difficoltà per noi di contenimento della domanda. E poi, per quanto riguarda invece la programmazione pomeridiana insomma, e serale, c'è sempre una maggiore attenzione sia del pubblico di zona, ed è una cosa di cui io vado molto fiero, cioè quello che comunque il museo è anche un punto di riferimento per un pubblico di zona, non esclusivamente per cinefili o per gruppi, no? Per un pubblico normale che trova nel museo comunque un luogo attivo di vita, dove succedono delle cose, oltre che magari ci sono delle presentazioni di libri, delle occasioni, degli aperitivi, delle cose così, per cui la zona molto molto molto legata, e poi a seconda ovviamente della programmazione, dell'offerta, il pubblico varia, a volte abbiamo molta gente, a volte se facciamo proposte un po' più ardite il pubblico diminuisce, diciamo così. Matteo, ci lasci tutti i riferimenti per saperne di più sul web? Beh, certo, si può comodamente andare in cinetecamilano.it, tra l'altro il sito è nuovo di pacca, diciamo così, lo stiamo proprio monitorando in questi giorni. Lì si va MIC o nella programmazione, e si guarda la programmazione del MIC del museo interattivo, perché abbiamo tre sale, una è appunto quella del museo, oppure si entra nel museo e poi si cerca la programmazione della sala, insomma è molto molto semplice. Lì si vede tutta la programmazione estiva del museo di cinema. Benissimo. Allora, io ti ringrazio, ricordiamo Estate Tabacchi al Museo Interattivo del Cinema a Milano fino al 25 agosto, dicevi il martedì e il venerdì? Dal martedì al venerdì c'è questa rassegna, poi benissimo, sabato e domenica ci sono delle retrospettive, ad esempio adesso ce n'è una dedicata a Peter Lorre, che è un volto mitico, insomma, del cinema degli anni 40-50, e questo però lo sviluppiamo più durante il sabato e la domenica. Alla sera, insomma, Estate da Bacchi da martedì a venerdì. Benissimo. Weekend, diciamo, liberi. Un abbraccio, Matteo, e alla prossima. Grazie. Ciao. Va ciao, bene, ciao. Grazie a voi, buona giornata. Eccoci, questo era Matteo Pavesi su Estate Tabacchi, e questa è Visionari su Radio Onda Rossa, tutti i giovedì il cinema dalle 14 alle 15 in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page c'è Ascolta la diretta. Per quanto riguarda le informazioni sulla scaletta e sulla trasmissione, sempre sul sito internet della radio, sull'home page, sulla colonna centrale, la voce trasmissioni, Visionari, sulla pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa, e l'indirizzo di posta elettronica che è visionari@ondarossa.info. Eccoci con Andrea Paco Mariani di OpenDDB Distribuzioni dal Basso per le consuete novità del mese. Paco, ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti e spero stiate bene. Tutto bene qui, sì, sì, caldissimo, però va bene, dai. Allora, ovviamente come sempre vi ringraziamo insomma per l'aiuto che ci date nel diffondere un po' le attività che facciamo e le proposte che facciamo. Questo mese, essendo anche poi il mese che precede la pausa estiva, abbiamo portato in catalogo diverse opere, molto diverse tra loro anche, e abbiamo raccolto diversi documentari che raccontano storie dal mondo dislocate in diverse aree. Abbiamo un lavoro girato in Libano con la comunità dei profughi siriani, un altro lavoro girato in Argentina che racconta dell'esperienza della Tupac Amaru, e altri lavori girati in Cambogia. E questo per dire che vi invitiamo ovviamente ad andare a vedere sul sito tutti questi singoli progetti, questi singoli documentari, perché è stato sicuramente un mese dove forse anche insomma in virtù della costanza che stiamo dando alle attività della piattaforma sono arrivate davvero tante opere. Sono arrivate anche altri progetti che riguardano invece altri settori della piattaforma. Ad esempio Berto Edizioni ha fatto uscire Questi fiori malati, che è la prima monografia in italiano e per il mercato italiano dedicata al regista portoghese Pedro Costa, che va a aggiungere quindi un altro tassello anche nella sezione delle editorie indipendenti che curiamo. Paco, ma lo sai che c'è stata la presentazione del libro qui a Roma e io insomma ho conversato con l'autore qui proprio a San Lorenzo. Con Michael? Sì. Questo è come si dice, dimostra ancora una volta in più quanto sia bello e importante non sottovalutare tutte le reti orizzontali che stiamo costruendo in questi anni, perché penso che sia fondamentalmente questo il valore aggiunto, ancora prima di qualsiasi piattaforma, di qualsiasi modello di distribuzione. Sì. C'è in questo momento in Italia sicuramente la necessità di porsi delle domande, o meglio di rendersi conto un po' più velocemente di quanto queste reti siano già molto attive e del potenziale che portano con sé. Proprio su questo punto mi aggancio per segnalarvi altre due novità molto importanti per la nostra piattaforma. La prima è che abbiamo lanciato da un paio di settimane da un'idea e poi appunto con un lavoro fatto a quattro mani con Danilo Monte, che è uno degli autori presenti sul nostro catalogo da molti anni ormai, sempre per quell'aspetto anche delle progettualità che nascono dagli incontri. Abbiamo lanciato una call digitale, una call online dedicata alla figura di Alberto Griffi, che immagino conosciate tutti, e stiamo cercando sempre attraverso il cappello del Creative Commons, quindi immaginando una chiamata ai videomaker che sia impostata in un modo diverso e che si ponga delle domande anche sull'utilizzo di questi materiali, per raccogliere tutti quei materiali video, fotografici, anche grezzi, non per forza già editati, realizzati in backstage durante le attività di Alberto, che appunto quest'anno cadono i 10 anni dalla morte di Alberto Griffi, e assieme a Danilo e all'associazione Griffi ed altre esperienze stiamo provando appunto a lanciare questo percorso che in questa fase prevede principalmente una raccolta di tutti questi materiali e la possibilità di organizzarli dentro una teca digitale in Creative Commons, e i primi feedback ricevuti sembrano essere molto, molto positivi. Un domani l'idea, assieme a Danilo e assieme a tutte queste realtà, esperienze e questi autori che si aggregheranno al progetto, l'idea di quella di provare a costruire una sorta di film collettivo, però appunto basato non sulle opere direttamente di Alberto, ma su come i giovani autori, i giovani videomaker hanno raccontato Alberto e i backstage dei suoi film con il proprio occhio, quindi è un progetto molto sperimentale. L'altra cosa molto importante che vi segnalo, che non c'è ancora appunto sulla piattaforma ma verrà pubblicata domattina alle ore 12, sta per uscire il nuovo singolo del progetto Terror Uniti, un progetto a cui ci siamo avvicinati dopo l'uscita di Gente del Sud, del primo singolo musicale che uscì ormai ad aprile, durante i giorni della contestazione napoletana Salvini. Per chi non sapesse, il progetto Terror Uniti è un progetto che racchiude più di 30 musicisti della scena napoletana, e un progetto che ovviamente ci ha subito entusiasmato, con i quali ci siamo subito legati, e appunto domattina alle ore 12 uscirà il nuovo singolo, questa volta dedicato alla lotta delle popolazioni indigene in Nord Dakota, tutta la faccenda che ormai purtroppo o per fortuna non lo so conosciamo molto bene, tutto quello che sta succedendo rispetto all'oleodotto che stanno costruendo appunto tra il Nord Dakota, nelle aree del Nord Dakota in America. La delegazione della comunità indigena è venuta in Italia le scorse settimane, ha fatto una tournée che ha passato Bologna, Roma, Napoli, Firenze, tante città, e ora appunto questo nuovo singolo vuole essere, attraverso lo strumento ovviamente della musica e dell'opera culturale musicale, essere di sostegno a questa lotta. Ovviamente per noi questa è stata una proposta che abbiamo citato immediatamente, non solo perché ormai c'è un percorso in costruzione con quel progetto musicale, ma proprio perché rispecchia pieno tutti i ragionamenti e i meccanismi e gli immaginari che da anni portiamo avanti anche noi. Per cui ecco, domani alle ore 12 ci sarà questo grande ultimo lancio che molto probabilmente, se non ci sono sorprese, chiuderà questa stagione di distribuzione dal basso e ci darà appuntamento a settembre con novità importanti, tra cui l'uscita autunnale di The Harvest. Benissimo. Paco, un abbraccio e a risentirci presto. Grazie a voi come sempre e buona giornata. Ciao, ciao, ciao. Andrea Paco Mariani di OpenDDB, distribuzioni dal basso, sulle novità del mese. Ed eccoci con Alessandro Tiberio di Wanted Cinema per parlare della rassegna Estarte, che sarà qui a Roma al Cinema Farnese, cominciata il 2 di luglio, andrà avanti fino al 30, quindi tutto il mese. Alessandro, ben ritrovato. Grazie, grazie, ben ritrovati a voi. Allora, raccontaci un po'. Allora, questa rassegna è nata un po' per sostenere un momento abbastanza difficile del cinema, perché appunto soprattutto realtà cittadine come il Farnese hanno un po' bisogno di presentarsi non soltanto come dei contenitori che un po' passivamente ricevono e propongono film, ma appunto con il gestore del Farnese, Fabio Amadei, abbiamo ipotizzato di cambiare un po' la traiettoria, cioè di rendere questo cinema un propulsore non soltanto di singoli spettacoli ma di linee editoriali, e quindi iniziare un percorso che lo faccia diventare una sorta di tempio dell'art house all'interno di Roma. Partiamo con questa rassegna appunto dal nome Estarte, i grandi protagonisti dell'arte nel fresco della sala cinematografica, perché appunto riteniamo che la sala in questo momento, soprattutto negli orari pomeridiani e primo serale, possa essere il luogo anche più piacevole dove ripararsi insomma da questa calura che sta affliggendo la capitale, e il tema che ci sembrava più consono per questo tipo di approccio, anche perché appunto l'arte è un qualcosa che siamo abituati a fruire in degli ambienti chiusi, in degli ambienti raccolti, fosse appunto il tema giusto. Le prime due giornate di domenica e lunedì scorso sono andate piuttosto bene, il pubblico ha risposto in maniera entusiasta, i film sono piaciuti moltissimo, e quindi andiamo avanti adesso questa domenica e questo lunedì con un doppio spettacolo alle 18:30 e alle 20:30. Domenica con un omaggio a una delle icone fondamentali della storia del cinema, ovvero Marilyn Monroe, di cui viene presentato il film Love Marilyn, di Diari Segreti, di Liz Garbus, che è un film molto particolare perché nasce dal ritrovamento di una serie di lettere nascoste dalla stessa Marilyn, che gettano nuova luce su alcuni dei capitoli più controversi della sua vita. Ma la cosa interessante è che appunto queste lettere vengono interpretate da alcune delle più grandi star di Hollywood, come Adrian Brody, Glenn Close, Marisa Tomei, che sarà a breve in sala anche in Spider-Man Homecoming, e tanti altri, Evan Rachel Woods. E chiaramente il film è anche molto ricco di materiali d'archivio inediti, quindi crediamo che sia effettivamente un contributo per approfondire e scoprire dei momenti chiave della vita della grande star che finora sono stati maggiormente ignorati. Alle 20:30 invece, sempre di domenica, avremo la premiere di un film che è stato presentato al Festival di Roma della scorsa edizione. È Richard Linklater, Dream is Destiny, ed è la biografia del regista di Boyhood e di tanti altri film, la cui peculiarità è stata quella di riuscire a creare a cavallo tra gli anni 80, anzi all'inizio degli anni 90, una vera e propria factory, quasi a conduzione familiare, di cinema che appunto ha un po' costituito un esempio del cinema indipendente americano e ha ispirato anche moltissime case di produzione indipendenti a New York o a Los Angeles, con uno stile non solo dal punto di vista filmico, in particolare dei dialoghi. Insomma, Linklater è anche l'autore della trilogia Prima dell'alba, Before Sunset, Before Midnight, dove appunto i personaggi sono spiati, ripresi in delle situazioni estremamente intime e con un grandissimo realismo, ma che appunto è riuscito poi a conquistare in qualche modo anche la Hollywood mainstream con film importantissimi quali appunto Boyhood. È un film che soprattutto credo sia che ispiri un coraggio, un entusiasmo e una voglia di fare film, quindi è un film che mi sentirei di dedicare soprattutto agli aspiranti registi. Lunedì invece iniziamo un percorso all'interno dell'arte fotografica, il tema fotografia, con due fotografi quasi all'opposto. Alle 18:30 di lunedì ci sarà Bill Cunningham, New York, biografia di un simpaticissimo anziano fotografo di moda che è scomparso lo scorso giugno e la cui caratteristica era l'avere la filosofia secondo cui la vera sfilata di moda avviene nella strada. Quindi vediamo questo simpatico signore anziano che gira con la sua bicicletta per le strade di New York a immortalare dei passanti, dei personaggi che spontaneamente secondo lui dettano i trend della moda, ed è stato uno dei fotografi più noti, pagati, premiati della storia delle pubblicazioni appunto di fashion. Mentre alle 20:30 avremo Mapplethorpe, Look at the Pictures, biografia di Robert Mapplethorpe, che è uno dei fotografi più controversi, più provocatori, più scandalosi che hanno attraversato decenni della storia della fotografia americana dagli anni 60 in poi, ed è stato anche ampiamente censurato per queste sue foto, soprattutto con una sessualità estremamente forte. Lui non aveva paura di mostrare i lati della sessualità più espansa, arrivando addirittura a creare delle collezioni ispirate al feticismo, e credo insomma sia una visione assolutamente stimolante e divertentissima, perché poi appunto ci sono anche queste sue presenze estremamente folli e provocatorie che sicuramente possono divertire moltissimo il pubblico. E a proposito della fotografia, appunto abbiamo questo primo capitolo che si svolgerà con questi due film lunedì, ma proseguirà poi la settimana successiva, quindi domenica se non sbaglio il 16, con due altri grandissimi fotografi che sono Vivian Maier. Vivian Maier ha una storia veramente curiosa, perché la sua fama nasce casualmente dal ritrovamento di una scatola da parte di un ragazzo che stava cercando al mercatino delle Pulci alcune foto d'epoca di alcune città americane, e aprendo questa scatola ha trovato in realtà dei capolavori assolutamente sconosciuti. Sì, anche perché lei non pubblicava nulla, teneva tutto per sé. No, assolutamente, assolutamente, era proprio un hobby che teneva completamente per sé, e quindi questo ragazzo ha passato anni a cercare, uno, di identificare chi fosse l'autrice di queste foto splendide, e poi a recuperare tutto l'archivio. Da cui sono emerse decine di migliaia di negativi che tuttora sono in fase di sviluppo, quindi la collezione intera di Vivian Maier è ancora appunto in sviluppo. Mentre domenica 16 alle 20:30 replicheremo Robert Doisneau, La lente delle meraviglie, un film molto tenero su questo fotografo francese umanista che amava definirsi il ritrattista della felicità, autore di immagini immortali come ad esempio Il bacio davanti all'Hotel de Ville, che sono state replicate, anzi direi Il bacio davanti all'Hotel de Ville è uno degli esempi di fotografia virale che ha avuto maggior successo ante litteram, e il film è diretto dalla nipote, che quindi ha avuto un accesso privilegiato a tutto l'archivio, a storie, aneddoti anche domestici, familiari, che tra l'altro è al suo primo esperimento di regia, e quindi invito insomma gli spettatori a dare il loro giudizio. Secondo noi è un film veramente eccezionale, veramente emozionante. E poi, come giustamente hai annunciato tu, proseguiremo nell'arco di tutto luglio, sempre la domenica e il lunedì, affrontando tanti sottotemi legati al mondo dell'arte. Avremo la biografia di Maurizio Cattelan, avremo la biografia di Patty Guggenheim, ci sarà una serata una giornata dedicata alla performer Marina Abramovic, un'altra giornata dedicata a Banksy, quindi insomma l'arte per tutti i gusti. Bene, a questo punto ci lasci tutti i riferimenti internet per la certamente programmazione. La fonte principale è il sito del Cinema Farnese Persol, quindi cinemafarnesepersol.com, dove è molto evidente una locandina della rassegna da cui si può scaricare il programma per intero. E poi segnalo anche le pagine Facebook sia del Cinema Farnese sia di Wanted Cinema, dove potrete trovare tutti i dettagli sulla programmazione. E volevo comunicare che appunto per noi Estart non è solo cinema, perché abbiamo stabilito tutta una serie di convenzioni con molti esercizi che sono intorno al Cinema Farnese, in particolare per quanto riguarda food and drink, per cui c'è uno scambio, nel senso presentando il biglietto del cinema presso questi esercizi si ottiene uno sconto sulle consumazioni, e viceversa frequentando e consumando presso questi esercizi si può ottenere un biglietto ridotto a 5 euro per le proiezioni. Un abbraccio e a presto. Ciao Alessandro. Grazie a tutti. Ciao. Buona giornata. Alessandro Tiberio di Wanted Cinema sulla rassegna Estarte al Cinema Farnese qui a Roma fino al 30 luglio. Patrizia Salvatori. Per quanto riguarda l'Alphaville d'estate, cinema, grandi storie sotto le stelle, è cominciato il 1 luglio ma prosegue fino al 3 settembre, era un po' di tempo che non ci si sentiva, quindi ben ritrovata. Grazie, buon pomeriggio, sono proprio felice di sentire Federico, di sentirti, di sentire tutti voi per quest'estate, diciamo come al solito molto cinematografica, come sempre insomma, che è l'Alphaville d'estate, che è questa rassegna di quattro, adesso abbiamo lanciato il programma di luglio, e che è iniziato appunto con Il fantasma del Louvre e Belfagor. La nostra rassegna è una rassegna, diciamo, proprio di Cineclub Alphaville, fuori, all'aperto, sotto una tettoia, in un giardino, utilizzando uno spazio che da 8 anni è sempre lo stesso, ma che è meraviglioso perché il centro anziani, non so se lo conosci Federico, di Via De Magistris al numero 21, che è il più antico centro anziani del nostro municipio. E che ci abbiamo presentato il film di Mario Monicelli, ecco, con Ottavia, sì, anche. Ecco, quello, esatto, e dove appunto hai visto che insomma è molto grazioso, perché in realtà è uno spazio dove convivono varie generazioni, no? Sì, quella volta che sì, abbiamo fatto Monicelli, davvero eravamo tanti, avevamo convissuto tutti insieme sotto la stessa tettoia. È un posto dove appunto c'è questa possibilità di poter utilizzare spazi comunali, spazi della comunità in pratica, per poter lavorare anche di estate, a volte anche d'inverno, soprattutto d'estate, dopo che appunto il centro anziani chiude e noi apriamo le stelle praticamente della manifestazione. Quest'anno abbiamo iniziato, dicevo, con Bel Sacolo, il Fantasma del Louvre, abbiamo 4 rassegne per luglio. Le rassegne sono adesso in questi giorni, proprio sta andando la rassegna che è dedicata a tutti quei film d'autore e no, che in qualche modo risentono positivamente dell'estate, a tal punto da renderla indimenticabile. E quindi infatti ieri abbiamo fatto questo film molto bello, tra l'altro un incrocio tra Romero e Bergman contemporaneo, di una esordiente, di una regista esordiente franco-svedese, e ci siamo molto divertiti a vedere questo rapporto padre figlia nelle spogliere, appunto. Senti Patrizia, gli orari e i giorni? Allora, i giorni sono sempre, tranne lunedì, che è festa, e qui, che è festa dell'Arena, però ricordo che a causa della scomparsa di Paolo Villaggio, il prossimo lunedì l'Arena, il nostro piccolo spazio Arena, Alfa Vindestate, sarà aperto per proiettare una rewind del 2014, cioè dalle 21 c'è, cioè, il secondo tragico Fantozzi, e poi a seguire la vera corazzata Potionkin di Sergei Eisenstein, tanto per capire di che parliamo. Tutti gli altri giorni è sempre comunque dalle 21 fino alle 24. C'è la tessera associativa del Cineclub. Vi ricordo che le altre rassegne sono Peter Falk, c'è l'anniversario della scomparsa, poi c'è una rassegna dedicata al realismo poetico francese, da Carnet a Vigo a Renoir, e poi ci finiamo questo luglio, e poi vi diremo ad agosto, che ancora non siamo pronti, finiremo questo luglio con Le risate britanniche, cioè lo humor inglese, un titolo per tutti, pranzo reale con il porco, insomma la famosa storia del porco, ecco. Senti, le proiezioni sono sempre accompagnate da un momento d'incontro. Naturalmente, Federico, come tu sai, come sappiamo tutti noi che frequentiamo Alfa da tanto tempo, sì, certo, c'è un momento di incontro, c'è anche una brevissima introduzione che normalmente curo io, però non sono l'unica insomma a curarla. A volte ci sono invece altri ospiti ed altri associati del Cineclub che intervengono, ne discutono, eccetera. Ci sono delle serate particolari, ce n'è una in particolare che vorrei proprio sottolineare, che è la serata dedicata a Remo Remotti, con il regista Silvio Montanaro, che verrà a presentare il suo documentario Professione Remotti, che è un documentario dell'anno scorso. E chicca tra le chicche, verrà a presentare, dopo questo documentario, sarà a presentare anche 15 minuti di una sorta di comizi d'amore alla Pierpaolo Pasolini degli anni 60, dedicata al rapporto delle donne con il sesso. Quindi quella sera ci sarà Silvio Montanari che presenterà Remo Remotti, la sera è quella del 18 luglio, e a seguire proprio una clip, una breve, diciamo un breve focus di 15 minuti del futuro documentario Se parliamo di sesso, e ci sarà ovviamente Silvio Montanaro. E poi un'altra cosa, ci sarà il 25 luglio una serata speciale dedicata a Herzog, che compie gli anni, Werner Herzog, che faremo vedere Carraldo. Ultima cosa, l'11 luglio, cioè tra poco, la prossima settimana di martedì, il martedì sono dedicati agli eventi normalmente, ci sarà in Bretagna con Gauguin, c'è cioè un'Alfa Gallery, una galleria di arte pittorica comodamente seduti in saletta o appunto sotto la tettoia e sotto le stelle, dove verrà raccontato questa figura di artista Gauguin e delle sue opere d'arte che realizzò in Bretagna, quindi una serata molto luminosa, molto appunto francese. Per il programma in rete dove si può cercare? Allora, si può cercare su www.cineclubalfaville.it, niente popcorn.it, e tutta una serie di altre possibilità. Basta anche andare sul nostro Facebook oppure scrivere semplicemente Alfaville Cineclub. Benissimo. Patrizia, un abbraccio e ci si vede lì. Ma Federico, io non sto nemmeno ad invitarti, sei obbligato. Va bene, allora a presto. Un abbraccio, un saluto a tutti voi, buon pomeriggio. Ciao. Patrizia Salvatori su Alfaville d'estate, cinema e grandi storie sotto le stelle dal 1 luglio fino al 3 settembre al Pigneto, quartiere Pigneto, qui a Roma. Angelo Signorelli di Lab 80 su Max Ophuls, la giostra delle passioni, rassegna di tre film restaurati che usciranno in questi giorni. Alcuni sono già usciti, però insomma ci dirà tutto Angelo. Angelo, tanto ben ritrovato. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, raccontaci un po' di questa scelta. Allora, sapete che da alcuni anni la Lab 80 ha ripreso le riedizioni di classici nella versione originale e restaurata, e fino all'anno scorso anno, prima col progetto Gene Turley, ci siamo un po' indirizzati al cinema americano. Adesso abbiamo deciso di tornare un po' in Europa e abbiamo scelto Max Ophuls, fatto che è un regista che amiamo tantissimo, però proprio per cambiare anche un po' direzione, per cambiare anche genere, per cambiare anche il tipo di proposte, di fare una personalità, un personaggio che fosse anche più vicino alla cultura europea. E quindi la scelta è caduta su questo autore, che per noi è sempre, come ripeto, sempre al centro della nostra attenzione, e abbiamo scelto questi tre film che vanno dagli anni, primi anni 40, fino agli anni 30, fino ai primi anni 50, e che sono tra l'altro film che lui ha realizzato in Francia e che sono particolarmente significativi nella sua carriera. Quindi ecco, questo è un po' il senso di questa svolta, di questo cambiamento di direzione della politica distributiva di Lab 80 Film, che accanto a film recenti e a nuove produzioni, qui scopre di nuovi autori, di nuovi di aree geografiche anche che non siano particolarmente frequentate dalla distribuzione commerciale, sviluppa e cercherà di sviluppare anche nei prossimi anni questa politica di riscoperta di grandi classici della storia del cinema. Allora, ci dici i titoli e quali sono le modalità anche di uscita? Allora, i film escono tutti in DCP 2K, quindi versione restaurata. Le copie che vengono al circo sono bellissime. I film sono tre, sono Tutto finisce all'alba, nel titolo con cui è uscito in Italia, un film del 39 che in originale si intitola Sound and the Man, poi Da Meyerling a Sarajevo, che è un film del 1940, e Il piacere e le plaisir del 1952. I film sono disponibili comunque per la distribuzione, qualsiasi sala o il territorio italiano può richiederci la disponibilità di questi tre film. A Bergamo li faremo nella rassegna Esterno Notte, quindi tra luglio e agosto, ed è un progetto naturalmente che come distributori ci sentiamo di consigliare a tutti gli esercenti, a tutti quelli anche che gestiscono arene estive all'aperto, perché comunque è un'occasione per giovani e meno giovani di recuperare un po' questi film, che sono veramente bellissimi. I film escono tutti in versione originale con i sottotitoli italiani, che è un po' il senso anche della nostra politica, della nostra strategia distributiva. Posso confermare quanto dici, perché ho visto uno dei tre, il più recente, Il piacere del 1952, e il restauro devo dire che valorizza molto sia le scene di gruppo che le laboriose scenografie. Sì, tra l'altro, come tu sai, è tratto da tre racconti di Guy de Maupassant, uno più lungo che è La Maison Tellier, gli altri due racconti più brevi, ed è un film, un piccolo gioiello questo film, soprattutto per la freschezza, per la capacità anche di messa in scena, per, come dicevi tu, anche la capacità di gestire una situazione affollata di interpreti, soprattutto appunto la storia di questa squadra di prostitute che si trasferisce in campagna per celebrare la cresima, prima comunione di una nipote della tenutaria del bordello, e devo dire che è veramente un film spassoso ed è un piacere per gli occhi, per lo sguardo, per la per la cultura cinematografica che viene trasmessa allo spettatore. Sì, tra l'altro stavo ripensando adesso alle prime scene, quelle del ballo, quelle scene di interni con una videocamera molto mobile, molto moderna. Sì, sì, quello tra l'altro ti riferisce al primo episodio e devo dire appunto questa eleganza, ma anche questa capacità di entrare nell'ambiente, di muovere la macchina da presa tra le diverse situazioni, metterle in collegamento tra di loro. Ecco, nota che è un regista che ha ispirato Kubrick tra gli altri, quindi non certamente l'ultimo arrivato. E queste scene del ballo che richiamano un po' la Belle Époque e così sono veramente strepitose, da rimanere incantati per la capacità di, in uno spazio tutto sommato che ristretto, però di far respirare proprio il cinema, la macchina da presa, la messa in scena in maniera straordinaria. Devo dire che pochissimi registi sono riusciti a fare questo nella storia del cinema. Mm-hmm. E ci lasci tutti i riferimenti web per la programmazione? Sì, il sito web è www.rab80film/distribuzione. Ci sono tutte le informazioni che sono utili appunto anche per la richiesta dei film, per il noleggio. Ricordo ancora l'appuntamento di Bergamo, comunque per gli spettatori di Esterno Notte, ma comunque i film si potranno vedere anche in altre città, in altre regioni italiane. Benissimo, allora un abbraccio e a presto. Grazie a voi e buona giornata a tutti. Angelo Signorelli di Lab 80 su Max Ophuls, la giostra delle passioni, rassegna di 3 film restaurati. Consueto appuntamento imperdibile con Alberto Crespi, che è co-direttore della 23esima edizione di Narni, le vie del cinema, rassegna di cinema restaurato, in quel di Narni per l'appunto, da ieri fino all'8 luglio. Alberto, ben ritrovato. Ben ritrovato a te e a tutti i vostri ascoltatori. Buongiorno a tutti. Oh. E buon appetito. Allora Alberto, dici un po' intanto com'è andata la prima giornata. Sta andando tutto bene, perché quest'anno Narni è un festival doppio, è un festival che ha raddoppiato invece di lasciare. Giunta la 23esima edizione, abbiamo deciso di coinvolgere finalmente il centro storico di Narni, perché come sa chi è venuto a trovarci in questi anni, le proiezioni della sera anche quest'anno si svolgono al Parco dei Pini di Narni Scalo, la parte moderna di questo ridente centro dell'Umbria. E stasera per esempio avremo Cronache di Povere Amanti restaurato alla presenza di Giuliano Montaldo, perché approfitto subito per spendere un minuto su questo straordinario personaggio che è il direttore storico delle giornate, delle vie del cinema, che continua a lavorarci assieme a me. Giuliano Montaldo sta avendo un momento di gloria grazie alla sua interpretazione nel film di Francesco Bruni, Tutto quello che vuoi. E stasera noi avremo modo di ricordare che Giuliano Montaldo nasce attore, perché agli inizi della carriera, nei primi anni 50, ha fatto l'attore in alcuni film del suo amico, mentore e maestro Carlo Lizzani. Il primo fu Actum Banditi, il secondo fu I margini della metropoli e il terzo fu appunto Cronache di Povere Amanti, che si ispira a un bellissimo romanzo di Vasco Pratolini ed è una narrazione della nascita del fascismo nella Firenze degli anni 20. Sì. E Montaldo, accanto a Mastroianni, a Rossano Podestà, ad Antonella Lualdi, ad altri attori di gran nome, fa una prova d'attore non indifferente e quindi stasera ci parlerà dei suoi inizi e del suo approdo attuale a questa professione, che poi per il resto della sua carriera ha accantonato per privilegiare, per nostra fortuna, quella di regista. Bene. Però dove sta il raddoppio? Il raddoppio sta nei pomeriggi, perché nel centro storico di Narni, in questo borgo medievale davvero stupendo, nel complesso del San Domenico, si svolgono delle quelle che ho battezzato lezioni di cinema e storia, un po' sull'onda delle lezioni di storia organizzate dalla Terza, dall'editore La Terza, che peraltro è partner di questa iniziativa. Io e Angelo Dorsi, che è uno storico importante, che ha scritto un libro bellissimo, 1917, l'anno della rivoluzione, edito appunto dalla Terza, abbiamo preso il 1917, del quale ricorre il centenario ovviamente, abbiamo isolato alcuni fatti storici che avvengono nel 17, da Caporetto alla rivoluzione d'ottobre, ma anche alla fucilazione di Matahari, piuttosto che alla rivelazione, all'apparizione della Madonna e alla rivelazione dei segreti di Fatima, per raccontarli in chiave storica, con degli storici specialisti che vengono a darci il loro punto di vista su questi eventi, ma anche in chiave cinematografica. Per capirci, oggi alle 4 Andrea Nicolotti, che è un professore di storia di Torino, che ha scritto dei libri bellissimi sulla Sindone e su altri misteri della fede, analizzati però in chiave storica, non in chiave teologica, verrà a parlarci appunto di Fatima. E io avrò modo di mostrare alcuni esempi di come il cinema ha raccontato Fatima, in film degli anni 50 e anche in film più vicini a noi. E vi mostrerò anche la scena del miracolo nella Dolce Vita, per esempio, che è una scena epocale, vi ricordate, no? Quando tutti i paparazzi e i giornalisti si devono radunare in un campo vicino a Roma, dove alcuni bambini sostengono di aver visto la Madonna, per cercare di capire come a volte la fede, il misticismo, i miracoli appunto, si intersecano con la vita quotidiana e con la grande storia, perché poi Fatima è un evento storico di portata non indifferente, perché sì. La Madonna di Fatima, tra le rivelazioni che consegnò ai tre pastorelli, c'era anche il monito su quello che stava accadendo in un paese molto lontano chiamato Russia, dove i comunisti si stavano dando da fare per prendere il potere, e la Madonna già nel 1917 ammoniva sui pericoli del comunismo per la fede. I segreti di Fatima sono stati poi ripresi da Karol Wojtyła, ricordiamolo, in chiave sempre anticomunista nei confronti dei regimi dell'est, di cui Wojtyła, polacco, quando è stato papa, è stato uno dei grandi demolitori, per così dire. Quindi credo che sia un racconto interessante in cui cinema e storia si sostengono a vicenda. Quindi, se siete interessati, oggi alle 4 nel centro storico di Napoli c'è questo incontro, e stasera verso le 21:30 c'è Giuliano Montaldo che parla di Cronache di Poveri Amanti, quindi insomma una giornatona, dai. Senti Alberto, ammettiamolo. quanti i titoli di questa edizione? Sono 6 come al solito. Siamo partiti con Nel segno di Roma, un peplum molto divertente, con Anita Ekberg, è venuto Gianni Amelio a raccontarcelo, perché lui è il massimo esperto di questo genere cinematografico che era molto in voga tra gli anni 50 e 60. Stasera appunto abbiamo Cronache di Poveri Amanti, domani sera abbiamo Il Gatto Pardo, che non ha bisogno di presentazioni, e sabato chiudiamo, questo invece ci tengo a dirlo, con Vogliamo i colonnelli, che è un film di Mario Monicelli e che è una farsa molto divertente su un immaginario golpe che avviene nell'Italia degli anni 70, e sappiamo che in quel decennio in Italia i golpe ne furono progettati davvero, sì, non sì. Finti e non particolarmente divertenti, però a volte la farsa, la commedia, sì. Serve a capire l'attualità e a capire la storia ancora meglio del grande cinema d'autore. Il film di Monicelli è molto divertente, credo che rivederlo sarà un'occasione di divertimento e di riflessione. 1974 poi il film. Esatto, sì. 4 anni dopo il golpe borghese, sì, e 7 anni dopo il vero tragico golpe dei colonnelli in Grecia. Sì. Alberto, mi piace sempre chiederti un aggiornamento rispetto a il presente e anche le prospettive del restauro. Dunque, il restauro continua a conoscere un periodo di splendore, naturalmente, perché si evolvono le tecnologie. Fino a un po' di anni fa i restauri venivano fatti sulla pellicola, adesso i restauri vengono fatti in digitale. Questo spiega anche perché, il pubblico avrebbe tutto il diritto di chiederselo, perché a volte si sentono annunciare restauri di film che erano già stati restaurati qualche anno fa. È semplicemente l'evoluzione della tecnologia. Un film che magari 15 anni fa è stato restaurato in pellicola e poi 4-5 anni fa è stato portato su un supporto digitale a 2K, Oggi spesso viene restaurato in 4K, che è un formato digitale che contiene esattamente il doppio delle informazioni digitali, quindi il doppio della qualità, e ci saranno, arriveranno sicuramente tecnologie ancora più sofisticate, quindi non dobbiamo stupirci dei restauri multipli, per così dire. Sì. Sono solo occasioni di rendere ancora più sicuro il futuro dei film, rendere meno volatili, meno, come dire, più solidi i supporti su cui abbiamo modo di vedere questi film, e di mantenere viva la memoria del grande cinema, che poi è lo scopo che qui a Narni ci prefiggiamo da 23 anni. Alberto, tutti i riferimenti per la programmazione su internet? Pagina Facebook Narni Le Vie del Cinema, naturalmente il sito internet del comune di Narni, anche per chi vuole la mia pagina Facebook, Alberto Crespi, chi vuole chiedermi l'amicizia può farlo. Alberto, un abbraccio, è sempre un piacere, speriamo a presto. Ma un abbraccio a te, un abbraccio a te, grazie come sempre, un saluto a tutti gli ascoltatori. Ciao, ciao, ciao. Alberto Crespi, co-direttore della 23esima edizione di Narni, Le Vie del Cinema, rassegna di cinema restaurato fino all'8 luglio. E con lui chiudiamo l'appuntamento settimanale per quanto riguarda questo giovedì 6 luglio di Visionari, il cinema su queste frequenze. Il giovedì dalle 14 alle 15 in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page c'è Ascolta la diretta. Sempre sull'home page, colonna centrale, alla voce trasmissioni, Visionari, trovate le informazioni sulla scaletta e sulla trasmissione. C'è la pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.